Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Affronta l'operazione per ridurre i sintomi del Parkinson facendo il cruciverba, la sua passione. È accaduto all'ospedale dell'Aquila, centro in cui viene utilizzata una tecnica chiamata neurochirurgia funzionale. Ne parliamo oggi a Obiettivo Salute insieme al dottor Francesco Abate, neurochirurgo all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, che ha eseguito l'intervento. Sì, allora, l'intervento che abbiamo seguito è riguardato un caso di Parkinson che ormai era farmacoresistente e in questi casi la nostra equip, formata da neurologi e radiologi, insieme a noi hanno posto indicazione a questa tecnica che è la DBS, che di fatto consiste nella stimolazione di alcuni nuclei profondi dell'encefalo. La novità che abbiamo introdotto è quello di aver utilizzato un nuovissimo stimolatore che riesce a registrare tutta l'attività elettrica cerebrale e quindi in real time ci riesce a dare delle indicazioni importanti riguardo ai parametri di stimolazione, se è necessario dare degli adattamenti attraverso una programmazione esterna e riuscire a modulare in qualche maniera anche l'eventuale terapia farmacologica d'ausilio. Il paziente si sottopone a un intervento che dura intorno alle 4-5 ore e la sua passione era quella del cruciverba, per cui gli abbiamo chiesto se volesse passare questo tempo in maniera diversa, essere rilassato, e lui ci ha chiesto di poter fare questi cruciverba che appunto sono la sua passione. L'intervento è andato perfettamente, il paziente è ancora ricoverato e nei prossimi giorni verrà dimesso. Il segnale che deve essere mandato è sicuramente che questo tipo di chirurgia è una neurochirurgia importante, dedicata ad alcuni pazienti, e ci si può assolutamente fidare di questa nuova metodica. Le donne in gravidanza e le neomamme sembrano particolarmente sensibili agli effetti psicologici della pandemia Covid-19. A suggerirlo sono le indicazioni di un programma di intervento per la gestione dell'ansia e della depressione perinatale nell'emergenza e post-emergenza Covid, pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità. A Obiettivo Salute la dottoressa Gemma Calamandrei, che ha coordinato il gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha elaborato il rapporto. Questo sperimentare il distanziamento sociale, l'isolamento, la paura del contagio e l'incertezza sul futuro in una fase così delicata come la gravidanza e il periodo immediatamente postparto può rappresentare un fortissimo fattore di rischio per le neomamme. Quello che ci siamo preoccupati di fare è sottolineare come i programmi di screening, di intervento e di supporto alle donne attivi in molti centri ospedalieri e nei consultori in Italia debbano essere mantenuti anche se in forma remoto per raccogliere l'ansia e la preoccupazione di questo particolare settore della popolazione. Soprattutto noi invitiamo, utilizzando questo programma di intervento anche a distanza, ad attivare laddove è possibile dei sostegni alle donne che stanno sperimentando questo momento particolare della loro vita, perché questa cosa non si trasformi, poi non ricada anche sullo sviluppo della relazione con il bambino in questa fase così importante della vita. Bene, per oggi è tutto, vi aspetto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Oggi parliamo di mindfulness. Non mancate, una buona giornata e una buona settimana da Nicoletta.